E allora, bentornate, bentornati nei nostri studi. Si inizia adesso la mini primer di oggi, mini primer dedicata a un'intervista di Pinar Selek. Pinar Selek è nata nel 71 a Istanbul in una famiglia politicamente impegnata. La sua madre è farmacista, il suo padre è avvocato, difensore dei diritti umani. Il suo nonno, Cemal Aki Selek, fu un pioniere della sinistra rivoluzionaria, cofondatore del Partito dei Lavoratori di Turchia. Il suo padre, dopo lo colpo di Stato militare nel 1980, è stato arrestato e resterà 5 anni in prigione. Nel 1992, Pinar inizia le sue studi di sociologia perché pensa che si deve analizzare le ferite della società per essere capace di guarirla. Sprona una sociologia di terreno e analizza il campo accademico come luogo privilegiato dell'esercizio del potere. Passa molto tempo nelle strade di Istanbul con i bambini e adulti senza fisso domicilio e svilupperà dei legami di amicizia profondi, ma sceglierà sempre di non scrivere su questo argomento per ragioni etiche. Nel 1995 è cofondatrice del Laboratorio degli Artisti di Strada, sarà la coordinatrice e parteciperanno tante persone senza fisso domicilio, anche ragazzi, ragazze, zigani, studentessi, studentesse, casalinghe, travestiti, transessuali, prostitute. Il suo lavoro di sociologa la porta a iniziare delle indagini sulla questione curda e lei farà parecchi viaggi in Kurdistan, in Francia e in Germania per realizzare una sessantina di interviste destinate a alimentare un progetto di storia orale. Nel 98 è arrestata dalla polizia di Istanbul e torturata per il rifiuto di dare i nomi delle persone che ha intervistato. Resiste e inizia una nuova forma di tortura. È accusata di aver messo nel mercato delle spezie di Istanbul una bomba. Anche se parecchi diversi rapporti di esperti hanno certificato che non si trattava di una bomba, ma dell'esplosione accidentale di una bombola di gas, questo è l'inizio per lei di un accanimento politico-giudiziario che dura adesso da 14 anni. Nel 2000 fonda con altre un'associazione femminista, Amargi, che si impegna nelle mobilitazioni contro le violenze alle donne, per la pace e contro tutte le dominazioni, e apre la prima libreria femminista al centro di Istanbul. Pinar Selek ha scritto nel 1996 Ya Basta, un raccolto di testi sul movimento zapatista. Nel 2004 scrive Non abbiamo potuto fare la pace sulle mobilitazioni per la pace in Turchia. Si impegna poi a analizzare e a denunciare l'esclusione e la marginalizzazione dei transessuali e delle prostitute di un quartiere di Istanbul in un libro che si chiama Mask, Cavalier e Nana, La rue, il cœur. Un'altra opera sociopolitico si chiama Diventare uomini strisciando sulla mascolinità nel contesto del servizio militare. Ha anche pubblicato 3 opere di racconti per bambini e un romanzo. Spinta all'esilio per l'accanimento politico-giudiziario, ha vissuto a Berlino e adesso sta in Francia. Ultimamente ha scritto un libro in cui racconta il suo esilio, lontano da casa, ma quanto. Le compagne del collettivo di solidarietà romano l'hanno tradotto. Anche se assolta più di una volta, si ritrova di nuovo da fronte a un nuovo processo che sarà il 22 novembre prossimo, perché la Corte di Cassazione ha per la terza volta fatto appello. Pinar Selek si iscrive, si situa nelle lotte sociali e internazionali contro tutte le forme di potere, di violenza e di sfruttamento, sperando un giorno vedere un mondo di pace e di giustizia per tutte e per tutti. Abbiamo avuto il piacere di ricevere qui a Radio Onda Rossa la settimana prossima Pinar Selec e per la mini primer di oggi vi proponiamo la prima parte della sua intervista. Faremo la traduzione simultanea e vi auguriamo un buon ascolto. Siamo qua in studio con Pinar Selec e abbiamo avuto questa opportunità di incontrarla al momento in cui lei stava a Roma. Pinar, tra l'altro, è una compagna che abbiamo conosciuto nei movimenti e le rete femministe che si sono messe insieme, soprattutto lottando contro la violenza alle donne, a un livello, se non internazionale, almeno europeo. E da quando abbiamo conosciuto Pinar, molte compagne sia in Francia che a Roma hanno iniziato a fare dei comitati di solidarietà con lei per una storia che comunque ci racconterà. Abbiamo con noi Donatella, che lei ha iniziato con altre a fare questo comitato, e la prima domanda che facciamo è di dire che volete fare e come avete iniziato e che state facendo. Sì, ciao a tutti e tutte. Noi abbiamo iniziato con questo comitato proprio conoscendo, come tu avevi già detto, tramite la rete di solidarietà di donne lesbiche che sono in lotta contro la violenza sulle donne, e in questa occasione abbiamo fatto conoscenza delle compagne francesi che avevano conosciuto Pinar nel 2010 in un incontro, e tramite loro poi siamo venuti a conoscenza anche noi del caso di Pinar, e anche soprattutto perché abbiamo anche conosciuto delle compagne di Amarghi, che è un collettivo che è turco di Istanbul. Poi sicuramente Pinar vi racconterà tantissimo, anche perché lei è una delle fondatrici. E tramite queste reti che si sono piano piano diventate sempre più strette, più belle anche proprio negli scambi, siamo state fortunate di avere Pinar proprio qua a Roma, che è venuta con sua sorella, tra l'altro, che è anche la sua avvocata. E tra l'altro volevo dire che abbiamo anche organizzato adesso un'iniziativa insieme a lei che si terrà il sabato 13 ottobre a L'Una e le Altre, che sarà un incontro con lei per parlare su vari argomenti che sicuramente usciranno fuori anche adesso nella nostra discussione. Noi abbiamo poi anche iniziato a fare un piccolo blog che è ancora in via di allestimento, e non solo, abbiamo anche tradotto un suo saggio che ha scritto, che andremo anche a presentare proprio domani sera, quindi il 13 all'iniziativa A L'Una e le Altre, che inizierà alle ore 17. E questa presentazione di questo piccolo saggio sarà anche un po' una conoscenza per cercare di conoscere meglio Pinar e di farla conoscere anche non solamente come militante femminista antimilitarista, ma anche un po' come anche dallo sguardo da sociologa, che anche delle sue esperienze, che tra l'altro lei ha fatto in questi ultimi anni, siccome lei non vive più in Turchia e è dovuta andare via dalla Turchia, da Istanbul, dal suo paese che lei ama molto, e quindi è anche questo saggio è molto bello perché parla proprio della sua esperienza fuori dal paese suo. Su quello poi ne parleremo sicuramente anche adesso durante l'intervista. Come si intitola questo saggio? Il titolo del saggio è Lontano da casa, ma quanto. E Pinar, bienvenue. E Pinar, benvenuta negli studi di Radio Onda Rossa. Merci beaucoup, je suis très contente. Grazie, sono molto contenta di incontrarti. Écoute, la première question que j'ai envie de te poser. La prima domanda che voglio ti voglio fare è come sei diventata femminista. Ça a pris un long temps, Non lo so, credo che sia stato un processo lento e allo stesso tempo è arrivato tutto ad un tratto. All'inizio non mi definivo come femminista, ma vedevo come una femminista, perché criticavo e analizzavo le cose, trovavo dei legami, trovavo dei legami nei rapporti sociali di dominazione, eccetera. J'étais dans les rues, je faisais plein de choses, j'étais avec les travailleuses de sexe, des prostituées, j'étais avec. Perché erano nelle strade, facevo un sacco di cose con le lavoratrici del sesso, le prostitute. Mi sono confrontata con tutti i tipi di discriminazione. Je venais d'une famille très alternative de gauche. Mon père était à prison. Venivo da una famiglia molto alternativa di sinistra, mio padre era stato in prigione, da piccola ho passato il mio tempo davanti alle prigioni, in mezzo a migliaia di persone che resistevano, quindi sono cresciuta all'interno della resistenza. All'università, soprattutto quando ho iniziato a leggere tutti gli analisti, ho fatto dei legami a livello teorico e ho scoperto le teorie femministe che rispondevano alle mie domande. J'avais une position radicale, c'est-à-dire je voulais vraiment radicalement la liberté. Avevo una posizione radicale, ovvero volevo radicalmente la libertà, radicalmente nel senso che volevo la libertà dalle radici. Allora scavavo in continuazione, il marxismo non mi era sufficiente, altre teorie neanche. Non mi dicevo anti, ma queste teorie non mi bastavano, ero piuttosto anarchica, ma ugualmente questo pensiero non mi era sufficiente. Mettevo in discussione l'androcentrismo, la dominazione dell'uomo sulla natura, eccetera. Ma quando ho incontrato le teorie femministe è stata una festa per me. Après, grâce à ça, j'ai commencé à relier la domination dans la vie privée. Perché grazie a questo ho iniziato a fare legami con la dominazione nella vita privata. Ho capito che il privato è politico. E il metodo soprattutto dell'analisi femminista relier les choses qui peut montrer. Che può legare le cose, che può mostrare l'altra faccia delle cose, mi è parso molto importante. Allora ho iniziato a dirmi femminista quando ero all'università, ma quando ho conosciuto le teorie femministe non mi sono più fermata. Come una persona che si trova nel deserto, ho iniziato a leggere tutto e a farmi delle domande, perché avevo esperienze molto importanti e avevo bisogno di analizzarle per comprendere me stessa, per comprendere tutta la società, per comprendere la mia vita, per comprendere come continuare a vivere, eccetera. La rue che frequentavo beaucoup était très masculin. Perché la strada che frequentavo era molto maschile. Le militarisme que j'ai vécu dans ma maison, parce que les militaires étaient venus chez nous. Il militarismo che ho vissuto dentro casa, perché i militari sono venuti a prendere mio padre, hanno distrutto tutta la casa. Allora sono sempre stata testimone di tutte le fasi del sistema militarista. E per questo volevo analizzarle molto, molto radicalmente, cioè alla radice, per cambiarle veramente. Soprattutto mettevo in discussione la violenza. Perché io sono una persona che cerca la felicità e la libertà. Perché le due cose non si possono separare. Per me la libertà è il contrario della violenza. Perché la violenza è limitare tutte le volontà di un'esistenza. Volevo veramente lottare contro tutti i meccanismi che istituzionalizzano, che legittimano, che creano, che producono la violenza. Quindi l'analisi del patriarcato ha completato le mie idee. Ma non mi definisco solamente come femminista. Sono femminista, sono molto orgogliosa di definirmi femminista. È grazie al femminismo che posso essere più attiva negli altri ambiti. ma sono anche ecologista sociale, anarchica, ho molte posizioni politiche. Un'unica filosofia o prospettiva non è sufficiente per esplicare tutte le problematiche della nostra esistenza e del mondo intero, ma il femminismo è molto importante per me. Sì, come ho scoperto il femminismo, la risposta è questa. Stiamo ascoltando Enur. Per la mini primer di oggi abbiamo scelto di ascoltare l'intervista fatta a Pinar Selek e la stiamo anche traducendo. Si continua. Allora, un point très particulier de tes recherches, de tes écrits, c'est de lier féminisme et militarisme. Allora, un punto molto particolare delle tue ricerche e dei tuoi scritti è il legame fra militarismo e femminismo, costruzione della mascolinità nell'esercito, hai pubblicato e analizzato, e siccome non è una cosa molto diffusa, conosciuta per noi, perché sia in Francia sia in Italia il legame tra femminismo e antimilitarismo non è molto forte, non ci sono tanti scritti, siamo dunque interessate che tu ce ne parli. D'accord, peut-être pour le mouvement féministe en Turquie aussi, quelquefois c'est pas quelque chose le plus important. D'accordo, forse per il movimento femminista in Turchia non è la cosa più importante. Anche da noi ci sono differenti gruppi con differenti posizioni. Ma per la Turchia posso dire che il movimento femminista, come movimento, è nato dopo il colpo di Stato degli anni Ottanta. le mouvement féministe après les années 80. Perché prima c'era solo il femminismo di Stato che era indipendente. Il movimento femminista dopo gli anni 80 si è costituito staccandosi dallo Stato e dalla sinistra, staccandosi anche dal discorso militarista. Perché all'epoca, quando lo Stato, dopo la fondazione della Repubblica, diceva alle donne: sono io che vi libero. E c'erano dei modelli di donna molto militari e molto liberi, con i capelli corti e le gonne corte, ma non sexy, stile militare, che, che bombardavano i curdi come pilote degli aerei negli anni 30. In seguito le femministe hanno detto che in quell'epoca le donne erano emancipate, ma non liberate. Dopo gli anni 60, quando la sinistra era molto forte, tutti parlavano della liberazione delle donne e della loro emancipazione. Ma non permettevano loro di organizzarsi come donne, dovevano sempre restare legate ad una grande causa. Allora noi abbiamo veramente voluto emanciparci da questi meccanismi militari anche, sia della sinistra sia dello Stato. Abbiamo profondamente messo in discussione tutto ciò. Possiamo dire che negli anni 90 c'è stata la seconda ondata del femminismo, che faceva molte lotte, molte manifestazioni, ma era un movimento piuttosto turco, eterosessuale e di classe media. Ma poi, quando il movimento curdo si è sviluppato in Turchia dopo gli anni 90, e quando il movimento LGBT e quando altri movimenti sociali si sono sviluppati, il movimento femminista ha iniziato a interrogarsi. Soprattutto le lesbiche, le donne curde, hanno iniziato a mettere in discussione le differenze e le gerarchie tra le donne. Abbiamo iniziato a chiederci quale potrebbe essere il nostro ordine del giorno, la nostra attualità, quale potrebbe essere l'obiettivo della nostra lotta, perché per le donne curde c'erano altri problemi e per le lesbiche altri ancora. Allora, come connetterli tra loro? Dopo gli anni 90, grazie allo sviluppo di altri movimenti e grazie alla presa di parole di donne qui vivent d'autres qui subissent d'autres gifles che vivono e subiscono altri schiaffi del patriarcato, le patriarcat plein de mains, perché il patriarcato è pieno di mani, di braccia. Toutes les femmes par rapport à son situation dans la hiérarchie sociale, être kurde, être lesbienne, être, quindi tutte le donne subiscono differenti differenti schiaffi. Il rapporto alla loro situazione e gerarchia sociale. Penso che si possa analizzare il genere, tra virgolette, separandolo dai rapporti sociali di sesso, che sono articolati su differenti rapporti di potere. Abbiamo visto che quando il movimento femminista prende parola in altre manifestazioni e lotte, come quelle contro la guerra o contro i discorsi nazionalisti, tutti gli altri movimenti diventano più forti, vengono rafforzati, perché senza una prospettiva femminista è molto difficile analizzare i meccanismi del nazionalismo oppure del militarismo o anche dell'eterosessismo, perché bisogna mostrare i meccanismi. Senza mostrarli i movimenti diventano molto superficiali e le lotte assumono delle rivendicazioni molto limitate. In Turchia veramente noi abbiamo molto bene, facilmente. C'est une chance et malchance en même temps. Vu que in Turchia abbiamo visto molto facilmente, questa è stata una fortuna e una sfortuna allo stesso tempo, abbiamo visto che i rapporti di dominazione tra i sessi non si creano solo all'interno della famiglia, ma anche dello Stato, della scuola, in tutte le istituzioni pubbliche che creano i rapporti appunto di dominazione tra i sessi tutto il tempo. Moi, personnellement, mais beaucoup de femmes en Turchie, beaucoup de mes amis, surtout les amis de Amargi. Io personalmente, ma anche molte altre donne in Turchia, molte mie amiche, le compagne di Amargi, per esempio, lottando contro il patriarcato, abbiamo visto molto chiaramente che le differenti donne sono modellate in funzione delle loro differenti posizioni nel sistema e nella società gerarchizzata. Allora per noi il femminismo diventa una politica di libertà che oltrepassa le frontiere delle rivendicazioni per l'uguaglianza, eccetera. Noi vogliamo veramente la libertà e vogliamo veramente cambiare l'ordine di tutte le cose, che è maschile. Ma veramente vogliamo la libertà per tutte e tutti e crediamo che il nostro femminismo è questo. Sans lutter contre le patriarcat avec tous ses liens avec d'autres pôles de domination. Se non lottiamo contro il patriarcato con tutti i legami che ha con gli altri rapporti di dominazione, se ci limitiamo soltanto ad analizzare i rapporti tra uomo e donna, la diseguaglianza, la violenza contro le donne, vediamo che il patriarcato cresce e cresce. Allora ci chiediamo di cosa si nutre ogni volta. Allora cambiamo di rivendicazione e quando le otteniamo vediamo che il patriarcato ha trovato un altro meccanismo di oppressione. Per esempio ha trovato la violenza simbolica. Perché? Perché non riusciamo a vedere le radici che nutrono il patriarcato? Allora, noi siamo radicali. Alors pour nous, le féminisme radical n'est pas seulement. Allora noi siamo radicali. Per noi il femminismo radicale non è solamente un essenzialismo o un separatismo o l'essere solo tra donne. Cioè sì, noi siamo donne. Non siamo poi un'organizzazione mixta aussi. E non siamo un'organizzazione mista. Très actif. Avec les plateformes, avec ma siamo anche molto attive, creiamo alleanze su varie piattaforme in tutte le lotte. Siamo radicali e vogliamo cambiare il sistema in questo mondo. We'll be right back. E allora lei è Sezen Aksu e la sua musica ci accompagna nella mini-finale di oggi, che è un'intervista che abbiamo fatto a Pinar Selek una decina di giorni fa, all'occasione della sua venuta a Roma. Où le patriarcat s'est construit et où l'oppression des femmes. Ci sono molti luoghi in cui il patriarcato viene costruito e dove viene costruita l'oppressione delle donne, non solo la famiglia. Vorrei chiederti cosa avviene nell'esercito riguardo alla costruzione della mascolinità. J'ai fait une recherche sur la construction de masculinité dans l'armée. Ho fatto una ricerca sulla costruzione della mascolinità nell'esercito e soprattutto nel servizio militare. In Italia oggi non esiste più un servizio militare come quello che c'è da noi, non è più obbligatorio come da noi, ma noi abbiamo questo obbligo che diventa un meccanismo di costruzione della mascolinità. Ci sono 5 tappe attraverso le quali un uomo diventa uomo nella nostra società. La prima tappa è la circoncisione. La seconda è il servizio militare, la terza trovarsi un lavoro, la quarta trovarsi una donna, possedere una donna e la quinta avere almeno un figlio da lei. Queste 5 tappe sono molto importanti per gli uomini. Allora io ho voluto fare questa ricerca perché ho voluto prendere in considerazione questo spazio omosociale, considerandolo come un laboratorio sociale. Perché vi si incontrano uomini di differenti estrazioni sociali e vi si possono leggere molte cose, come si creano gerarchie tra loro, come si ripartiscono in gruppi e come si creano dei modelli, come si sottomettono, come vengono valorizzati e svalorizzati allo stesso tempo e come il gran capo, cioè lo Stato, il maschile con la M maiuscola, li femminilizza e li defemminilizza. Nella misura in cui femminilizzarli significa umiliarli, perché per lo Stato virilizzazione significa defemminilizzazione. Quindi nel femminilizzare gli uomini, dicendo loro adesso vi umilio, siete come delle donne, gli uomini umiliandosi e sentendosi umiliati vogliono continuamente sempre provare la loro virilità. Ci sono molte cose di cui possiamo parlare riguardo questo processo, perché può mostrare molti aspetti visibili nella società, per esempio nelle imprese o in altri contesti. Il servizio è un vero e proprio laboratorio sociale che mostra un'infinità di aspetti. Faccio un esempio. Quando i militari entrano in caserma insieme, tutti devono spogliarsi, si devono levare tutti i peli, rasarsi completamente, poi ricevono abiti, il tutto in 5 minuti perché c'è chi grida veloci, veloci. Se non si è veloci si viene picchiati, pestati, c'è molta violenza. Poi vanno davanti allo specchio e non si ritrovano più, non riconoscono più la propria immagine, dicono non sono io. Questo è un simbolo che mostra bene come nel sistema siamo obbligati ad indossare gli abiti del genere. Che il sistema nel servizio militare è più brutto. Nel servizio militare appare più brutalmente, ma anche nel sistema dei media o in altri contesti è pieno di uniformi e di abiti che dobbiamo indossare. Questo libro, questa mia ricerca, ha suscitato molte discussioni in Turchia, non solo nel movimento femminista, perché era la prima volta che una femminista parlava del servizio militare e degli uomini. Dopo questo libro ero sicura che mi avrebbero messo in prigione e che avrebbero anche vietato il libro, perché nella Costituzione c'è un articolo molto molto chiaro: è vietato criticare il servizio militare, creare un raffreddamento, un'antipatia contro il servizio militare. È un articolo molto molto chiaro, ci sono molte persone in prigione per questo. Ma il libro è stato pubblicato, ne hanno parlato le televisioni, ne abbiamo discusso in molti posti. Io ho fatto un giro della Turchia. Sono andata dove mi hanno invitata, anche molti uomini volevano discutere di ciò. Io ero una militante femminista molto conosciuta e tutti erano stupiti del fatto che avessi fatto una ricerca sugli uomini. E io rispondevo, perché sono una rivoluzionaria, perché voglio veramente decodificare il sistema patriarcale. Non voglio militare insieme agli uomini nel movimento femminista, ma gli uomini possono creare i loro gruppi per mettersi in discussione ed interrogarsi. Ma questo non sta a me, io lotto per le donne, ma posso anche fare delle alleanze con altre lotte. Ma non hanno vietato il libro, non mi hanno mai vietato il libro, ci sono in Turchia molti miei libri che circolano e che non vietano. Con me hanno usato un'altra tecnica, mi hanno accusata di essere una terrorista e dopo la pubblicazione del libro, 4 mesi dopo, ho dovuto lasciare la Turchia perché mi accusavano di essere colpevole di un attentato terrorista, quindi ho dovuto lasciare la Turchia. Ma dopo il libro c'è stato un gruppo di uomini che si è creato, erano soprattutto amici di femministi, anarchici o gay, e hanno creato un gruppo per discutere, per scrivere le loro esperienze, eccetera. La torture, per esempio, moi j'ai vécu une grande torture et j'ai dans les prisons, posso anche dire che durante le torture, per esempio, io ho vissuto delle grandi torture. In prigione ho vissuto con delle donne che erano state stuprate, che avevano vissuto delle torture atroci fatte dagli uomini, ma anche dalle donne, mi hanno torturata. Quando sono uscita dalla prigione, sono passati degli anni, un giorno ho visto in televisione un video che credo abbiate visto anche voi, un video dell'Iraq che è stato diffuso dopo la guerra in Iraq, un video di una guardiana americana che violenta un prigioniero arabo. Allora tutti ci hanno chiamato, i media eccetera, ci hanno chiesto cosa dite come femministe. Sì, quello che noi diciamo è questo, il sistema patriarcale utilizza la sessualità e tutto ciò che di morale vi è legato, come l'onore eccetera, che sono tutti concetti maschili. Questa donna è una donna, ma la biologia non è importante, perché noi parliamo di genere, di costruzione sociale del genere. Questa donna indossava l'abito, il costume del sistema patriarcale. E gli Stati Uniti con questo gesto volevano dire: la mia donna è più maschile della tua perché ti penetra. È la penetrazione. È questo, la penetrazione, è la dominazione. Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Hesap soramaz bana kim çıkarsa karşıma. Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Gezer eğlenirim, her günüm mutlu benim. Kim ne derse desin, canım nasıl isterse. Stiamo ascoltando Adja Pekan, siamo nella mini primer di oggi a ascoltare un'intervista fatta a Pinar Selek una decina di giorni fa. Est-ce que tu veux ajouter, tu as déjà beaucoup parlé sur la... Hai già parlato molto dell'evoluzione e della storia del movimento femminista. Vuoi aggiungere qualcosa? Ci vuoi parlare anche di Amargui? Alors, je vous ai dit que après des années 90... Allora, vi ho detto che dopo gli anni 90 il movimento femminista ha iniziato ad interrogarsi a partire dalla partecipazione, tra virgolette, di altre donne che hanno aperto delle discussioni all'interno del movimento femminista. Poi si è verificata, come dire, una sorta di resistenza nel movimento femminista, soprattutto le fondatrici, diciamo, di una generazione più vecchia di noi, volevano limitare la lotta la lutte contro le violenze fatte aux femmes, solamente alla lotta contro le violenze fatte alle donne e alla rivendicazione dell'uguaglianza. Oui, elle parlait de liberté, mais en général, sì, parlavano anche di libertà, ma in generale si limitavano alle sessualità eterosessuale. Quindi, quando le donne di Amargui hanno creato il collettivo, ci hanno detto che noi dividevamo il movimento e che non bisognava dividere il movimento, ma noi abbiamo risposto che sì, avete ragione, ma forse voi avete anche paura, perché se parliamo sempre degli stessi temi non possiamo avanzare, perché così si diventa un gruppo molto marginale. In quel periodo i due movimenti avevano fatto una grande uscita, che però iniziava a ripetersi nei temi. Le femmes d'Amargui, quando noi vogliamo creare un'altra cosa, e noi, le donne di Amargui, volevamo creare un'altra cosa. Eravamo molto differenti tra noi, eravamo differenti per orientamenti sessuali, per l'appartenenza etnica o l'appartenenza di classe, eravamo molto differenti tra noi, eravamo sei o sette donne, non molte. E prima di partire abbiamo iniziato a discutere di noi stesse, abbiamo discusso molto e ci siamo chieste come fare. Abbiamo iniziato organizzando delle grandi manifestazioni contro la guerra. Poi ci siamo avvicinate molto al movimento LGBT. Il movimento LGBT non è come qui, da noi è pieno di gruppi, ma manifestiamo insieme. E soprattutto da noi i gay si dicono femministi e sono anarchici ed antimilitaristi e sono molto politicizzati. Ci sono sempre dei problemi, ma ne possiamo anche discutere. Premièrement, pour Amargui, on a commencé à dire que Amargui c'est une organisation féministe. Allora, come Amargui, abbiamo iniziato a dire che Amargui è un'organizzazione femminista di lesbiche e di curde. In un anno Amargui è diventato molto grande in tutta la Turchia. Nelle differenti città le donne ci hanno contattato, ci hanno detto: aspettavamo che nascesse un gruppo così, quindi siamo cresciute molto velocemente, soprattutto ad Istanbul e anche ad Ankara. Facevamo delle manifestazioni che erano piene di donne. tu parles seulement de la sexualité. Abbiamo capito chiaramente che se parli solo della sessualità, solamente dell'uguaglianza, le donne non vengono. Perché differenti problemi toccano differenti persone. Allora, se tu cominci a s'ouvrir le porte, a ouvrir les portes, les gens entrent aussi. E allora se cominci ad aprirti, ad aprire le porte, le persone entrano. Non l'abbiamo fatto apposta. Per organizzarci con molte donne, la nostra linea politica era così. Io l'ho fatto per me e anche le altre. Après ça, c'était bien. Ognuna l'ha fatto per se stessa, ma la conclusione è stata ottima. Credo che ora nel movimento femminista questa linea sia riconosciuta. Ora le lesbiche sono molto più visibili. Ma ora c'è un altro problema. Ci sono molti dibattiti e discussioni nel movimento femminista, il che è sempre positivo. Ci sono molte questioni riguardo l'istituzionalizzazione che ci prende molto tempo e che ci allontana dal fare la politica. Perché si diventa parte di una polizia. Polizia vuol dire dirigere, organizzare, far parte dell'amministrazione. Allora abbiamo bisogno anche di questo. Ma moltissimi fondi e risorse internazionali delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea, milioni e milioni di euro colano, si riversano dentro verso il movimento femminista. C'è quindi una professionalizzazione, un'istituzionalizzazione che ci pone un grande problema. Marghi pubblica una rivista teorica che è distribuita in 3.000 esemplari come minimo, forse ora di più. E allo stesso tempo, come dicevi, un gruppo e un collettivo e dei collettivi che sono cresciuti e che toccano molte donne. La domanda è come arrivate a volte a creare delle teorie e a comunicare queste teorie e a comunicare con le donne ovunque. Parce que pour moi, je comprends des trucs, je ne veux pas dire extrémiste. Je sais que vous savez, sì, ve l'ho detto, siamo radicali, perché per me radicale non vuol dire estremista. Per me essere radicale significa cogliere, afferrare la radice delle cose. Allora per noi la riflessione e la capacità di manifestare sono due cose inseparabili. Prima di fondare Amarghi, quando discutevamo tra noi, abbiamo anche discusso su come il patriarcato è costruito. Bien entendu que come gli altri sistemi di dominazione sono costruiti. Abbiamo capito chiaramente che separano le cose, teoria e politica. Innanzitutto istituzionalizzano, ma con un'autonomizzazione del campo politico e una autonomizzazione del campo accademico. Quindi ci sono delle persone che riflettono per noi e delle persone, i politici, che cambiano le nostre vite. Allora ci siamo dette che bisogna distruggere tutto ciò, siccome siamo radicali e vogliamo distruggere l'ordine delle cose. E come si può distruggere ciò? Ci siamo dette che noi siamo un'accademia. Abbiamo scritto su un grande striscione che siamo un'università, a Margi è un'università. Quando entrate ad Amargi vedete una grande scritta: per noi vivere è il più importante lavoro universitario, una cosa del genere, davvero fico. Allora noi viviamo e che facciamo delle cose, riflettiamo sempre insieme e sviluppiamo delle analisi su ciò che viviamo, perché non vogliamo che siano gli altri a fare ciò al posto nostro, per cui dobbiamo rinforzare innanzitutto le nostre capacità e anche le nostre capacità politiche, perché non vogliamo lasciare le nostre vite in mano ai politici. Ma pratiche e analisi non vanno separate, il sistema che funziona con questa separazione. In quel periodo c'era anche una grande distanza tra le femministe universitarie e le femministe militanti. Quindi ci siamo dette che bisognava creare dei legami, degli spazi collettivi di discussione, dei collegamenti. E nella nostra rivista ci sono sia le militanti sia le universitarie che lavorano insieme. e ciò è molto positivo perché ci permette di analizzare insieme il nostro act-act, le manifestazioni, quello che viviamo, e possiamo anche seguire ciò che viene discusso all'interno delle università. Facciamo anche delle traduzioni. Ma non discutiamo solo di donne, anzi con la nostra prospettiva femminista discutiamo di tutto. Per esempio abbiamo fatto dei dossier sulla povertà, sulla globalizzazione, su molte cose, molto sulle donne, ma non solamente sulle donne. Credo che questo ci renda più forti. E nella prima rivista, 10 anni fa, abbiamo scritto una prefazione in cui abbiamo detto che le nostre tasche sono piene di pane, ma se ne mangiamo in continuazione, se mangiamo sempre le stesse cose, questo pane finisce, allora bisogna aggiungerne. Abbiamo bisogno di teoria, non possiamo continuare sempre con la stessa teoria, bisogna sviluppare nuove teorie a partire dalle nostre pratiche, dalla nostra praxis. Diciamo che il pane non deve finire. Överler romanlar böyledirler Çalgısız yaşayamaz ölürler Dille de roman olsun ister çamurdan olsun O da Allah kuludur her kim olursa olsun Dille de roman olsun ister çamurdan olsun O da Allah kuludur her kim olursa olsun Allora, questa era la prima parte dell'intervista che abbiamo fatto a Pinar Selleck. E per dirvi un po' di più sulla seconda parte che verrà, che potrete sentire la settimana prossima, gli abbiamo anche chiesto come affrontare le fratture diverse che attraversano i movimenti femministi. Gli abbiamo anche chiesto di parlarci un po' delle relazioni tra donne in Turchia e ci ha parlato anche della solidarietà internazionale e poi altre sorprese. Eh sì, è molto interessante anche la seconda parte, quindi vi invitiamo a seguirci anche martedì prossimo in questo orario serale del Mini Pimer. Anche un ringraziamento alle compagne che hanno organizzato l'iniziativa, ne avete sentito parlare alla presentazione, ma insomma all'una e le altre. Le compagne del 22. E noi vi diciamo a presto. Sì, ciao. Ciao. شيرين.